Oh, buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro podcast di Fitness Discovery, l'unico per ora podcast che si occupa di allenamento, alimentazione e integrazione del fitness nel bodybuilding. E non solo. E ci ripresentiamo, io sono Lorenzo Vieri. E io Enrico Dell'Olio. Bene, e oggi siamo qui a discutere riguardo a un tema piuttosto caldo, specialmente per quanto riguarda gli ultimi anni nella medicina e anche nell'ambiente fitness, che è il digiuno. Questo diciamo, tema che è sempre più ricorrente e di cui vorremmo farvi oggi una piccola panoramica e con una serie di indicazioni che potrete ritrovare sicuramente utili per i vostri allenamenti e per le vostre alimentazioni che andate a strutturare. Allora, Enrico, cos'è il digiuno? Beh, Lorenzo, sicuramente è una metodica alimentare, direi, anche perché la maggior parte del tempo che passiamo, se ci pensi, lo passiamo in digiuno. Il digiuno che cos'è? È il tempo che intercorre tra un pasto e il successivo. Quindi è una metodica alimentare dove non si mangia. Non si mangia. E la troviamo poi in tutte le religioni, effettivamente, lo vediamo dall'islamismo nel Ramadan al giorno nel cattolicesimo, il venerdì, che è il giorno di magro, viene considerato un O in giorno. Quaresima, per In esempio, Quaresima, dove si eccetera. mangia In meno. sostanza, perché è stato inserito il digiuno? Il digiuno si sa dall'antichità che ha azione terapeutica e funziona particolarmente bene per risolvere le problematiche gastrointestinali, ma non solo, naturalmente. Il perché di questo deriva dal fatto che, se tu ci pensi un attimo, passiamo grossa parte della nostra vita a mangiare. Tra i 4, 5, 6 pasti al giorno, quindi costantemente. Ogni volta che noi facciamo un pasto, inneschiamo un processo digestivo. Il processo digestivo consuma in qualche modo calorie, quindi c'è una spesa energetica. E partendo dal presupposto che le risorse del nostro organismo sono comunque limitate, se il nostro organismo è impegnato a digerire qualcosa, non può impegnarsi a fare altre cose, per esempio a ricostruire o riparare cose che sono state danneggiate. Pensate a un sistema digerente. All'intestino piuttosto che allo stomaco che ha subito qualche danno, se deve essere riparato e siamo digiuno, il corpo riuscirà a farlo molto velocemente perché viene lasciato in pace e tutte le energie dell'organismo sono rivolte verso la riparazione di questo sistema. Se invece noi continuiamo a introdurre cibo, abbiamo un effetto contrario, in sostanza vengono rallentati tutti i processi di riparazione. Quindi nei problemi gastrointestinali è particolarmente interessante, ma non solo. Ma ricordiamo tra l'altro che solo nell'intestino ogni giorno sono 400 milioni di cellule che vengono rinnovate, quindi pensiamo al massiccio rinnovamento, che compito arduo ha il nostro organismo e i nostri organi in sé nel appunto continuare questi processi di rinnovamento di rinnovamento, e quindi quanto sia importante massimizzare la loro efficacia in qualche modo. Assolutamente sì. Tra l'altro è tipico di ogni specie, lo sa bene chi ha un animale in casa, un cane, un gatto, che quando questo è malato tendenzialmente lo mangia. Cani, gatti, qualsiasi animale, nel momento in cui si ammala generalmente lo mangia. Che si scontra invece con quello che generalmente il medico ci dice: quando sei malato faccia mangiare il bambino, faccia, mi raccomando che mangi perché gli serve energia per recuperare. In realtà, come abbiamo detto prima, ogni volta che noi andiamo in tortura degli alimenti, rallentiamo tutti i processi di ricostruzione. Partiamo dal presupposto che l'organismo umano, se in buone condizioni di salute, ha a disposizione energia sotto forma di grasso, sotto forma di muscoli anche che possono essere scomposti, per poter sostenere giorni e giorni e giorni di digiuno. Quindi una giornata di digiuno, 1 o 2 giornate di digiuno per un bambino o per una persona malata, si concretano semplicemente in una velocizzazione di solito dei sistemi di riparazione e quindi anche di recupero o nel miglioramento delle capacità del sistema immunitario di far fronte a una patologia o un'infezione, cosa che invece viene rallentata nel momento in cui ci forziamo a mangiare. Sotto consiglio del medico che ci aveva detto di mangiare. Quindi è bene quando non si ha fame non introdurre per forza alimenti, ma invece è più importante idratare, quello sì, sicuramente, soprattutto in condizioni di Tra febbre. l'altro, una volta mi ricordo mi parlassi dei famosi digiunatori, di queste persone che per detossificare l'organismo digiunavano fino a 40 giorni, se non sbaglio. Esattamente, beh, è famoso il libro scritto da Harold Diret, che è stato uno dei più grandi teorizzatori del digiuno per la guarigione di molte malattie, La dieta senza buco, si intitola, Ci sono ancora adesso in Svizzera addirittura dei centri dove malati di diabete piuttosto che di lupus eritematoso o altre malattie autoimmuni, artrite reumatoide, utilizzano i digiuni a scopo terapeutico attraverso il metodo di Allo-Deret, che è particolarmente interessante. In che cosa consiste veramente questo metodo? Fascici un attimo l'idea. Beh sì, c'è una fase di preparazione dove sostanzialmente la persona fa delle alimentazioni a base di frutta, verdura, particolarmente ricche di fibre, diciamo alimentazione detox, che ti preparano alla fase del digiuno. Poi c'è il digiuno vero e proprio, che può durare parecchi giorni, addirittura ci sono casi di persone che hanno fatto 40-50 giorni di digiuno. E la fase successiva invece è una reintroduzione degli alimenti in maniera sistematica e specifica, a seconda di quanto è stato lungo il digiuno. Non si può, in digiuni molto lunghi non si può ritornare a mangiare per subito un cotechino con la polenta, ma bisogna introdurre, per esempio, venivano consigliate le mele cotte, eccetera, e riabituare l'organismo a funzionare in una maniera corretta. Tra l'altro ci sono degli studi interessanti anche riguardo al digiuno, come comunque al digiuno ha una restrizione calorica molto forte sul riguardo al sostentamento della chimioterapia, quindi per la cura del tumore. Ci sono delle cliniche ulteriori in Svizzera, di cui spesso abbiamo sentito parlare, in cui appunto ci sono queste cliniche dove si hanno delle terapie molto specifiche, molto rigide, seguite da medici, di digiuno dopo post-operazione per la sportazione della massa tumorale, dove è possibile. E effettivamente questo digiuno perché può essere considerato curativo? Perché in qualche modo innesca dei meccanismi di chetosi. Esatto. Che è il metabolismo a base di chetoni, è quello predominante durante periodi piuttosto lunghi di digiuno. E cosa succede nel tumore quando entriamo in chetosi? Secondo la teoria metabolica del tumore, il tumore è una macchina che funziona a glucosio, in qualche modo. E infatti si sono visti molti studi, tra l'altro ne abbiamo parlato anche con Antonio Paoli alla conferenza in privata sede, alla International Conference on Strength Training, e appunto abbiamo discusso riguardo a questo discorso, e sembra che perlomeno nei glioblastomi, quindi nei tumori del cervello, queste terapie diete chetogeniche e quindi in associazione anche a quindi eventualmente digiuni sembrano essere molto efficaci. Perché? Perché fondamentalmente il mitocondrio viene degradato nel di solito, viene comunque inattivato, perché non più necessario a questo punto, un metabolismo glicolitico non necessita di mitocondrio, quindi di respirazione aerobica. E dunque anche tutti i geni che regolano la lipolisi, che quindi sono tutti i geni che il tumore, di cui il tumore non ha più alcuna necessità, vengono mutati e inattivati di solito dalla mutazione casuale che abbiamo nel processo di popolazione tumorale. E quindi quando il tumore si trova in una condizione di scarsità di glucosio dal digiuno, appunto, quindi dall'abbondanza di chetoni nell'organismo e da una scarsità di glucosio, quindi una glicemia molto bassa, ci troviamo in una condizione in cui appunto questo tumore fa fatica, anzi non riesce a produrre energia, e quindi tende a rimanere piccolo o a regredire. Vuole ridurre, infatti sostanzialmente vai ad affamare il tumore. Infatti una di quelle che sono delle vie diciamo che vengono percorse per la cura del tumore è proprio questa, dell'affamare il tumore in vari modi. Uno potrebbe essere quello che hai appena descritto, è estremamente interessante. Abbiamo visto che nel glioblastoma un tumore al cervello è particolarmente aggressivo, funziona particolarmente bene, almeno dagli studi che sono fatti. L'altra strada che viene percorsa farmacologica o attraverso, per esempio, l'utilizzo di alcuni integratori come la curcuma, la curcumina contenuta nella curcuma, è quella di bloccare l'angiogenesi, cioè la formazione di nuove vene, di nuove arterie, inibendo così la capacità di alimentarsi del tumore, perché non arrivando più sangue. La prima cosa che viene fatta generalmente dal tumore non è solo quella di crescere, ma di creare proprio una rete di arterie che permettano di alimentarsi. Nel momento in cui blocchiamo l'angiogenesi, riusciamo a ridurre la capacità di crescita del tumore o annientarlo direttamente. Però ecco, hai fatto bene a parlare di questo, Lorenzo, perché apre poi la discussione un'altra cosa, a quella che è la restrizione calorica in generale. Ossia, noi sappiamo già da quasi 40 anni che tutte le specie, quindi dai moscerini piuttosto che ai mammiferi, ai vermi, la riduzione dell'apporto calorico nell'alimentazione si concreta in un allungamento dell'aspettativa di vita, in tutti, e in una maniera inversamente proporzionale alla vita dell'organismo che stiamo testando, ossia gli organismi che vivono di meno, come i vermi o il moscerino della frutta, Drosophila melanogaster, che hanno tempi di vita generalmente estremamente corti, che si misurano in giorni, nel verme, in elegans, in C. elegans, circa una decina di giorni, se non mi ricordo male, nel moscerino della frutta una ventina, una roba del genere. Ecco, in questi organismi la restrizione calorica porta un aumento della vita che va da un terzo fino al doppio, cioè passano da 10 giorni fino a 20, raddoppiate la vita ai vermi, e il moscerino dei 20 giorni è 30-32. E questo lo vediamo anche in specie più vicine a noi, più vicine tra virgolette, nel senso che uno può dire un nematode, quindi un verme, è molto lontano evolutivamente da noi, dal nostro percorso evolutivo, il moscerino allo stesso modo, un topo ha lo stesso effetto. Un topo si allunga più circa un terzo, dai 3 anni normalmente di vita del topo fino a 4 e mezzo. Quindi parliamo di un grande quantità di tempo rapporto alla famiglia. Chiaramente per motivi etici non è possibile fare programmi di restrizione calorica sull'uomo, però si calcola che sull'estensione di vita dell'uomo, che tra i mammiferi è quello che vive in assoluto di più, si possa aumentare l'aspettativa fino a un 10-15%. Quindi vuol dire che se oggi la media sono 80 anni, potremmo aumentarla fino a 90-92 anni solo con la restrizione calorica. E per restrizione calorica si intende la riduzione delle calorie tra il 30 e il 50% dell'apporto calorico in relazione a quella che sarebbe una dieta isocalorica, cioè la dieta, la quantità di alimenti che andiamo a introdurre durante la nostra giornata per mantenere il nostro peso stabile. Partendo da quella, riducendo dal 30 al 50% l'apporto calorico, si entra in questa struttura, in restrizione calorica, con tutti gli annessi e connessi che ne derivano. E tra l'altro è notizia proprio di qualche settimana fa, è uscito un bellissimo paper riguardo alla genetica dell'invecchiamento, e sorprendentemente per gli scienziati, ma un po' meno per noi che lavoriamo su questo discorso, è che non esistono geni associati all'invecchiamento, quindi non esiste una predisposizione a invecchiare più o meno rapidamente, esiste una fattori ambientali che incidono in questo caso al 100%, non essendoci una componente genetica. Quindi ancora più importante è l'effetto di tutto l'ambiente, compreso quello della restrizione calorica, a maggior ragione in questo caso nell'anti-aging. Esatto. Tra l'altro hai fatto bene a dire che non esiste un gene in particolare, però esiste una classe di geni che vengono chiamate delle sirtuine, che sembrano più interessanti nella descrizione dei fenomeni e delle vie metaboliche relative alla restrizione calorica. Sì, ecco, non sono però, non c'entrano quelle associazioni all'invecchiamento, sono semplicemente geni che servono per tutta una serie di processi che adesso Enrico vi spiegherà, ecco, per non fare confusione. Esattamente, hai fatto bene Lorenzo a intervenire. Ecco, le sirtuine, che sono state tra l'altro trovate, si ritrovano in tutti, dal lievito di birra a tutti i microrganismi, cioè quindi geni ancestrali che sono comuni a tutte le specie, vengono attivate generalmente dalla restrizione calorica, cioè il basso contenuto all'interno della cellula di NAD nella sua forma ossidata, quindi nicotinamide adenin di fosfato, nella forma ridotta, che serve poi, è un enzima che entra nel ciclo di Krebs e che rilasciando poi ioni idrogeno, ci permette nella catena degli elettroni di trasformare l'ADP in ATP sostanzialmente. Quindi per la formazione di energia. Quando si accumula nella cellula alte quantità di NAD ossidato, quindi non ridotto, vengono attivate queste sirtuine. Queste sirtuine. E quando è che non si sia NAD ossidato? Quindi quando c'è poco nutrimento nella cellula. Quando c'è poco nutrimento nella cellula, in condizione di restrizione calorica, quindi si produce meno energia, il lavoro a livello mitocondriale diminuisce e si accumula questo NAD. Nel momento in cui si accumula questo NAD, viene stimolata la produzione di queste sirtuine che sono state identificate circa 6-7 sirtuine che troviamo sia nel citosol cellulare che nel mitocondrio che nel nucleo direttamente. E ognuna di queste azioni specifiche per quanto riguarda la ristrutturazione del DNA, per esempio, la riparazione, incide direttamente sulla apoptosi cellulare, sui mitocondri, eccetera, sulla biogenesi mitocondriale, eccetera, eccetera, riducendo anche molto la produzione di radicali liberi, che sappiamo essere uno dei fattori che può incidere nell'invecchiamento. Assolutamente, nel processo di invecchiamento, sicuramente. Assolutamente. E in quali casi può essere necessario quindi un digiuno? Allora abbiamo detto, nel caso di malattia sicuramente è molto interessante, di più giorni, ma anche nel caso di dimagrimento durante periodo di definizione potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante in quanto non solo ha un'azione detox, diciamo detossificante, ogni volta che facciamo un digiuno abbiamo questa, aumentiamo le capacità di riparazione e aumentiamo anche la capacità dell'organismo di eliminare quelle che sono le scorie derivanti dalle alimentazioni precedenti, lasciandolo a riposo, lui ha tutto il tempo, il fegato, di fare questi tipi di lavoro. Dall'altra parte, anche se non utilizzato direttamente per i digiuni, per il dimagrimento, scusate, il digiuno, se intermittente, cioè usato per periodi relativamente brevi di tempo, 24 ore, 36 ore, sappiamo oggi che non agisce sulla decomposizione delle proteine muscolari, quindi i muscoli ne risentono relativamente poco, ma agisce direttamente sulle proteine epatiche fondamentalmente nelle prime 48 ore. Quindi abbiamo questa azione detossificante, abbiamo un aumento della sensibilizzazione dell'insulina, perché rimanendo a digiuno non arrivano carboidrati e c'è una tendenza della cellula a migliorare la sensibilità insulinica, e quando noi ritorniamo a mangiare non solo non abbiamo perso le masse muscolari, ma ci dovremmo trovare anche più magri fondamentalmente e più puliti, più recettivi anche gli alimenti che andiamo a introdurre. Tra l'altro questo digiuno è un qualcosa che è probabile ci portiamo dietro dall'evoluzione di cacciatori e raccoglitori, quindi è molto diciamo facile pensare a periodi di digiuno forzati, chiaramente dal fatto che il cibo è per definizione in natura scarso e è solo nell'uomo, negli animali che sono legati all'uomo per vari motivi, sia allevamento, compagnia, dove il cibo abbonda nella civiltà occidentale, tra l'altro. L'80% del mondo, ricordiamo, che non vive con gli standard della civiltà occidentale, ma ha ancora problemi di carestie o di digiuni forzati. Molti in Africa non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena o hanno intere giornate in cui non riescono a mangiare, ahimè, e quindi in qualche modo riproducono questi pattern, questi modelli ancestrali in cui, come hai detto giustamente tu, cacciatori e raccoglitori, se avevamo cacciato, abbiamo terminato la nostra preda, dovremmo tornare a cacciare, non è detto che riusciamo a prendere lo gnu piuttosto che la zebra lo stesso giorno che iniziamo la caccia, magari ci vogliono 2 o 3 giorni, in quei 2 o 3 giorni non si mangia estremamente poco. Quindi è un qualche cosa che molte specie hanno comunque la quasi totalità ha imparato a gestire non come una carestia ma quasi come un'opportunità, potremmo dire, viste le modalità di attivazione di questi sistemi di riparazione indotti da restrizione calorica, quindi da digiuno. Questa è una cosa piuttosto interessante, come si riciclino situazioni sgradevoli a quasi a nostro vantaggio, chiaramente fino a un certo punto, se no l'animale incorre chiaramente a morte. Oh, per terminare, perché non volete tirare ulteriormente la nostra platea di ascolto, vorrei sottolineare un'altra cosa, che gli studi sulla restrizione calorica sono tanti, vanno avanti da molti anni, negli ultimi 10 è emersa tutta questa risposta, queste vie sirtuinergiche che abbiamo detto legate alla restrizione calorica. Quello che però non è ancora stato fatto è abbinare la restrizione calorica a programmi di allenamento specifici e vedere quanto l'impatto quindi dell'allenamento insieme alla restrizione calorica possa incidere positivamente o negativamente, non lo sappiamo, sull'estensione della vita del soggetto che stiamo analizzando. Va sempre considerato, più o meno Lorenzo, perché lavori in laboratorio in questo periodo, che quando si va a testare un topolino, per esempio, o una qualsiasi altra cavia, la andiamo a testare in condizioni estremamente controllate, in una condizione che è avulsa da quella che è la condizione naturale del topolino. Il topolino viene alimentato in una maniera precisa, l'attività fisica è minima, non è in natura, non ci sono... Quindi un ambiente quasi del tutto controllato e esterno, quindi senza contaminazioni? Esattamente. Molto diverso sarebbe prendere questo topolino, metterlo in natura, fargli una dieta a restrizione calorica e abbinare dell'attività fisica compatibile con quelli che sono i suoi standard di attività fisica in natura, così come nell'uomo, e vedere che tipo di influsso ha o può avere, secondo me positivo, però andrebbe verificato poi in laboratorio, un'attività fisica di un certo tipo sull'estensione insieme alla restrizione calorica della vita del soggetto che stiamo testando. Esistono anche però integratori che possono attivare gli stessi pattern o comunque nella stessa misura questa attivazione della rigenerazione corporea. Quindi, come per esempio il resveratrolo, di cui tu sei un pioniere in qualche modo in Italia. Assolutamente sì. Sì, ci sono delle molecole come il resveratrolo, la curcumina che abbiamo detto prima, anche l'acido lipoico, che devono essere che però consumate in quantitativo abbastanza alto, fortunatamente non hanno controindicazioni, e hanno un'azione diretta, indiretta diciamo, perché azionano la MPK, adenosin monofosfato proteinchinasi, che a cascata poi aziona anche la risposta serotonergica. Quindi sembrerebbe che questi tipi di integratori, ce ne sono svariati, sono quasi tutti polifenoli fondamentalmente, o alcaloidi, che hanno un'azione diretta appunto sull'attivazione di queste situine, no scusate, non diretta, indiretta attraverso la MPK, l'attivazione di questa importante via metabolica che ho appena descritto. Quindi potrebbe essere per un digiuno a scopo terapeutico curativo ottimale, potrebbe essere una doppia associazione tra quindi il digiuno stesso e anche degli integratori che possono indurre ulteriormente questi sistemi di riparazione a funzionare in maniera ottimale. E quindi creare un cocktail perfetto. L'azione sinergica. Esatto, per l'azione sinergica che ne deriva successivamente. E un'ultima questione, visto che ci occupiamo di fitness e di allenamento, c'è un'altra grande discussione riguardo all'allenarsi a digiuno, che è un altro dei diciamo dei topic, no? degli hot topics nel bodybuilding. Dei tabù anche. E anche dei tabù, esatto. Cioè, uno può pensare, ma allenandomi a digiuno, per esempio, per digiuno molti intendono anche la mattina appena alzati, quelli per loro il digiuno, quindi 8-9 ore di distanza dall'ultimo pasto. Che cosa? L'idea di base è ci sentiremo sicuramente deboli, spossati, renderemo meno. Come possiamo argomentare questo? Beh, nelle attività di tipo aerobico potrebbe essere. Effettivamente potrebbe essere, cioè se io devo fare una maratona e sto a digiuno da 12 ore, oppure allenamenti di tipo bodybuilding in alto volume, quello che andiamo a mangiare prima può influenzare direttamente la prestazione. Quindi in alcuni sport, diciamo di tipo aerobico o anaerobico lattacido, soprattutto quelli di tipo aerobico, ma probabilmente quelli anaerobico lattacei come il bodybuilding in alto volume, potrebbe incidere. Va verificato perché poi naturalmente se ci abituiamo a fare questi digiuni il corpo ha una capacità di reazione diversa e anche la produzione enzimatica all'interno del ciclo di Krebs ottimizzano molto velocemente la capacità ossidativa di altri substrati, per esempio i grassi presenti nel nostro organismo. Però ecco, quello sicuramente su questi tipi di allenamento, questi sport che richiedono quindi uno sforzo molto prolungato nel tempo, potrebbe essere negativo allenarsi a digiuno. Il bodybuilding ad alta intensità, quello che portiamo avanti ormai da tempo a noi, a intensity training, è talmente corta l'attività fisica e rarefatta a distanza di 3-4 giorni che le scorte di nutrienti acquisite nei 4 giorni precedenti al momento in cui ci andremo a allenare sono più che sufficienti per compensare quello che saranno le necessità metaboliche in termini di substrati energetici per sostenere la produzione di energia durante l'attività fisica che verranno richieste dal nostro organismo durante la nostra seduta di allenamento. Per cui direi che nelle attività a intensity il metabolismo energetico di riferimento è potenza anaerobico lattacido, leggermente lattacido, cioè stiamo parlando di attività che si svolgono tra un quarto d'ora e 25 minuti. ogni 4 giorni alla settimana. Quindi l'impatto di questo, dell'alimentazione prima di questo allenamento è assolutamente minimo. Quindi concluderei qui nel cuore di... Sì, abbiamo detto molto e credo che le persone abbiano avuto parecchi spunti di riflessione da questa nostra chiacchierata. Benissimo, quindi vi rimandiamo al prossimo episodio e vi auguriamo una buona serata, insomma, da Enrico e Lorenzo. Enrico e Lorenzo, ciao a tutti e al prossimo episodio, grazie.